Cominceremo toccando il tema della trama. Con Nuovo Cinema Paradiso nel 1988 il regista conquista l'Oscar. Il film non ha una trama particolarmente brillante, ma il regista punta proprio sull'intensificazione emotiva e quindi sul coinvolgimento. Secondo punto che andremo a vedere oggi è la critica, che essenzialmente è stata positiva, benché la regia di Tornatore è stata vista in maniera controversa. Chi lo ha visto come l'erede naturale di Sergio Leone, chi invece lo ha considerato un riadattatore di formule già sperimentate da altri. Vedremo poi gli attori, questa scelta di attori con una vasta esperienza teatrale, che ha comunque permesso a tutto il cast di mettersi in gioco. E in ultimo analizzeremo ovviamente il regista, che in giovane età esordisce in Sicilia col documentario Le minoranze etniche in Sicilia. Veniamo quindi alla trama. La storia presentata dal film del regista Giuseppe Tornatore ci riporta alla vita di un bambino siciliano, la cui infanzia è stata segnata dall'amore per il cinema. Salvatore Di Vita, regista affermato a Roma, torna dopo 40 anni nel natio paese siciliano per i funerali del proiezionista Alfredo, che gli insegnò ad amare il cinema durante gli anni della sua infanzia. I ricordi si riaffacciano con il ritrovamento di una bobina piena di polvere. Salvatore, questo è il nome del protagonista, detto Totò, nell'immaginario paesotto siciliano di Giancaldo, in assenza del padre partito in guerra, si nutre del paterno affetto di Alfredo, il proiezionista di una sala parrocchiale, il quale gli ha fatto scoprire i misteri della cabina. E qui nasce la storia del cinema italiano, che viene raccontata con gli occhi di un bambino, descrivendo i gusti e le reazioni del pubblico del paese di Giancaldo, di fronte al quale sfilano via via nel corso degli anni i film più tipici del momento, fino all'abbandono della sala per il nuovo idolo, quello della televisione. Ma la pellicola ci racconta soprattutto la storia della Sicilia degli anni 40, dagli anni 40 in poi, con le sue vedove di guerra, con gli emigranti, la scuola, il parroco che censura le scene dei film considerate troppo spinte a causa dei baci degli attori, e il bambino Totò, che è pronto ad addormentarsi quando serve la messa, che è sordo ai rimproveri della madre, che però è vispo e attento davanti ai film proiettati al cinema. La cabina per lui è qualcosa di sacro, tanto che si segna col segno della croce prima di entrare nella stanza del proiettore. E i racconti di Alfredo sul cinema muto alimentano così il desiderio di toccare la pellicola. Totò diventa proiezionista e prende il posto di Alfredo nel nuovo e ricostruito cinema Paradiso. Però successivamente, proprio su consiglio di Alfredo, va a Roma, dove acquista grande popolarità. Sullo sfondo del film vi è un paese che si va trasformando col passare degli anni, un amore, quello di Salvatore e di Elena, e che viene troncato dalla partenza di Totò per Roma, e poi una bugia, quella che Alfredo ha detto a Salvatore, proprio per convincerlo a partire, una bugia che ne ha segnato poi l'esistenza. Di Alfredo non rimangono che delle pellicole con le scene dei baci, la bobina è impolverata, proprio quelle immagini che sono state censurate dal parroco della chiesa durante l'infanzia di Salvatore. Ed eccoci al terzo punto della nostra trattazione, gli attori, e in particolar modo vedremo qui Philippe Noiret. Philippe Noiret si definiva un saltimbanco che ama la comodità, ma in realtà aveva il talento di chi ha continuato a servirsi del suo volto, di un fisico assolutamente comuni, per costruire dei personaggi che sono stati in grado di entrare nella storia del cinema. Esordì nel grande schermo in piccolissimi ruoli a partire dal 1949. Nel 1950, finiti gli studi superiori, partecipò ai corsi d'arte drammatica, tenuti da Roger Blin, attore poco sfruttato dal cinema, ma molto apprezzato nel teatro. E alla prosa alternò il cabaret. Il suo film d'esordio è considerato Le Pont Court del 1956. Dopo questo film, la sua figura cominciò ad apparire con frequenza, via via crescente, sugli schermi del cinema francese, seppure ancora in ruoli secondari, e poi sui set televisivi e sul palcoscenico. Così che nel 1966 diede l'addio ufficiale al teatro, e dopo essersi allontanato dal cinema francese, si orientò verso il cinema americano nel 1969, lavorando per Alfred Hitchcock in Topaz, oppure accanto a Michel Piccoli. Negli anni 70 comincia la sua popolarità in Italia, tramite il film surrealistico La grande abbuffata del regista Marco Ferreri, seguito poi dal film Amici miei del 1975 di Mario Monicelli e dalle collaborazioni cinematografiche con registi quali Rosi, Monicelli, Citti e Scola. In Italia affiancò spesso nomi celebri della nostra comicità, come Alberto Sordi, Troisi. È considerato uno dei più grandi attori del cinema francese in campo internazionale. Purtroppo, dopo una lunga lotta contro il cancro, è morto a Parigi all'età di 76 anni, proprio nel 2006. Altra grande protagonista del film è Pupella Maggio, o meglio Giustina Maggio, questo era il nome all'epoca. Non a caso l'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, la definì non solo la più grande attrice napoletana del Novecento, ma una protagonista della storia teatrale italiana. Nata a Napoli nel 1910 da una famiglia di attori, ha lavorato per molti anni nel teatro dialettale, quello napoletano. Lasciò le scene dopo la morte dei genitori, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, e si riavvicinò al teatro proprio seguendo il suo maestro, Edoardo De Filippo. All'età di circa 2 anni, ebbe il suo battesimo artistico interpretando il ruolo della bambola di Pezza, nello spettacolo di Edoardo Scarpetta, La Pupa Mobile, e si guadagnò così il vezzeggiativo di Pupella, da cui il suo soprannome Pupella Maggio. Il teatro fu il suo grande amore, mentre sul grande schermo è apparsa solo saltuariamente. E sul grande schermo, diciamo, ha dato comunque sempre vita a figure di secondo piano, ma comunque dotate di sensibilità e maestria. Tra i suoi film più importanti vi è Il medico della mutua nel 1968 con Alberto Sordi, per i quali ha vinto un Nastro d'argento alla miglior attrice non protagonista, e Amarcord di Federico Fellini. E siamo arrivati alla fine di questa breve presentazione, in cui spero che ci siamo tutti resi conto, abbiamo avuto modo di analizzare essenzialmente una storia italiana vissuta tramite l'evoluzione del cinema. Abbiamo visto l'impatto che un film di successo ha avuto nella storia di quanti vi hanno lavorato, la critica che è stata positiva, e non ultimo l'evoluzione artistica di un regista con tutte le sue sperimentazioni. Adesso, se avete domande...